Capitolo 18. Amsterdam, 6 febbraio 1532. Per fortuna la catena regge. Aggrappato al secchio, a penzoloni come un impiccato. Istinto, più che altro istinto. L'ho preso sull'orecchio. Se mi centrava, a quest'ora ero a mollo là sotto, che botta. Non sento più niente. Tutto suona lontano. Le grida, le sedie che volano, tenermi stretto. Se svengo, affogo. Almeno qui non posso prenderne più. Merda, sono troppi. E io a mettermi in mezzo come uno stronzo, per uno che non conosco neanche. Le braccia. Devo tenere. Le braccia o volo giù. Se risalgo ne prendo ancora. Se resto qui, prima o poi i muscoli cedono. Che cazzo di situazione. Gira tutto. Le spalle fanno male. È un bestione grandioso. Mica me lo potevo fare da solo. Eh no, quello mi ammazza se torno su. Ma merda, quell'altro poveraccio lo staranno massacrando. Quanti sono? 3, 4. Chi ha avuto il tempo di contarli? Ce li siamo trovati addosso. È cominciato all'improvviso. Quello si è messo a sbraitare. Cosa facevano le loro madri? Si facevano montare dai maiali di chi? Mi ha volato un tavolo sopra la testa. Roba che ci rimanevo secco. E se prendono i coltelli? Non sembravano armati. Cazzo, mica si entra armati in osteria. A bere una birra, no. A raccontare qualche balla. A parlare del mercato. Ma quel tipo ha tirato fuori la storia delle loro madri. Le braccia, Cristo, le braccia tengono duro, sì, tengo duro, ma non ce la faccio ancora per molto. Non posso affogare così. Che razza di morte è dopo tutto quello che ho passato? Tutti i posti da cui sono uscito vivo. O forse sì, è così che va a finire. Ti salvi dagli eserciti, dagli sbirri, e poi crepi come un topo affogato per colpa di uno che non è stato zitto. Mi sono messo in mezzo, non mi riguardava. E mi sono messo in mezzo. E che cazzo, 4 contro 1. Perché facevano tintinnare quelle borse piene di soldi? Armatori ben pasciuti sono, moglie casta da monta annuale e troie sefilitiche tutti i santi giorni. Sfruttatori, tutti preghiere e affari d'oro. E dagli con gli anabattisti pagati dal Papa, gli anabattisti sono solo un tori da sgozzare per dare loro le budelle ai cani. Gran bei levrieri che devono avere nelle loro magioni di campagna, rotti in culo pieni di soldi. Gli anabattisti in combutta con l'imperatore, che ti si infilano in casa per convertirti la moglie a suon di verga, che bisognerebbe far piazza pulita. Le braccia, Cristo, stanno per cedere. Ma perché mi sono messo in mezzo? È stato quell'altro pazzo a cominciare. Non doveva alzarsi e sputargli in faccia la birra. E poi dire quella cosa delle madri. Lo so anch'io che erano delle gran bagasce, ma c'era da aspettarselo che l'avrebbero presa male. A quest'ora l'avranno già sgozzato. Che se poi avesse solo sputato, era un ubriaco come tanti, invece no. È quello che ha detto. Ma sì, per quello che mi ci sono ficcato. Per quelle parole grandiose, quelle che avrei voluto dire io. Le braccia, merda, le braccia, devo tirarmi su. Coraggio, issa, non posso finire in fondo a sto pozzo schifoso, non posso crepare così, come un coglione. Forse quello è ancora vivo. Forse dirà ancora qualcosa prima che lo facciano fuori a cazzotti. Gran belle parole, fratello, perché sì, sei un fratello, altrimenti mica ti alzavi, mica dicevi quello che hai detto. Non l'avrei fatto per tutti. Questo voglio riuscire a dirtelo. Non mi sarei messo in mezzo per qualunque anabattista scoppiato. Ne ho già conosciuti troppi, amico mio. Tu hai del fegato, issa, per Dio, issa, devo risalire così. Piano, piano, su, ci sono quasi, devo uscire. Oh, merda, eccomi, sono sull'orlo. Ancora una spinta, ci sono. Sono diventati 5. Mi sembravano 4. Giuro che mi era sembrato di contarne 4. Adesso sono in 5. Tutti intorno a lui. È spacciato. L'oste è sul selciato del cortile. Si regge la testa. La brocca che ho lanciato è andata in pezzi, ma ha fatto i suoi danni. E l'amico sconosciuto se ne sta lì, impalato a sfidarli con lo sguardo, come se fosse il più forte. E dai, di qualcosa, com'era? Cos'è che hai detto prima che il mondo mi crollasse sulla schiena? Prima che quel gigante mi buttasse qua sotto? Salgo in piedi e comincio a raccogliere la catena. Non mi accorgo neanche di urlare. «Ehi, quella cosa che hai detto, su Gesù Cristo e i mercanti mangia merda!» Si volta stupefatto, quasi quanto gli altri. La scena si ferma, come stampata su una pagina. Rischio di perdere l'equilibrio. Devo sembrare uno stronzo maledetto. «Beh, sono completamente d'accordo con te. E adesso segui il consiglio di un confratello. Abbassa la testa!» Il gigante, che credeva di avermi affogato, diventa paonazzo. Si fa sotto. «Vieni, vieni, che ormai ho tirato su tutta la catena!» E ho il secchio in mano. Vieni, bravo, vieni a farti spaccare quella gran testa di porco che ti ritrovi sulle spalle. È un suono sordo, un tonfo secco, uno solo, che piega il metallo e fa volare per aria una pioggia di denti. Va giù come un sacco vuoto, senza un gemito, sputando fuori pezzi di lingua. Comincio a roteare la catena sempre più forte. Ve lo faccio vedere io, distinti messeri, quanto può essere rognoso un anabattista. Il secchio colpisce teste, schiene, volteggia sempre più lontano da me. La catena mi sega le mani, ma li vedo cadere, rannicchiarsi per terra, correre verso la porta senza raggiungerla. La giustizia del secchio è implacabile. Rotea, rotea, sempre più forte. Non lo tengo più. Ormai è lui che trascina me. È la mano di Dio, potrei giurarlo, signori. Il Dio che avete fatto incazzare a morte. E giù, ancora un altro. Dove pensavi di rintanarti, ricco idiota beone? Uno strattone, il secchio incagliato, bloccato sui rami di un alberello che per poco non viene giù anche lui. Un'occhiata sul campo di battaglia. Stesi tutti. Qualcuno mugola, si lecca le ferite tramortito, lo sguardo sui coglioni. Il fratello è stato saggio. Si è buttato a terra, al primo giro, e adesso si rialza, attonito, con una strana luce negli occhi. Come angelo sterminatore non me la sono cavata affatto male. Salto giù e traballo verso di lui. Alto e smilzo, barbetta scura appuntita. Mi stringe la mano troppo forte, la catena l'ha piagata. Dio ci ha assistiti, fratello. Dio è il secchio, non l'avevo mai fatto prima. Sorride. Mi chiamo Mattis, Jan Mattis, fornaio di Harlem. Ricambio, Garrett Buchbinder. Quasi commosso. Da dove vieni? Mi volto indietro e alzo le spalle. Vengo dal pozzo.